Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi iniziamo la trasmissione con una parola: vulnerabilità. È una sensazione che io provo di tanto in tanto, mi prende come a tutti, spesso al lunedì. Forse è più forte che nelle altre giornate della settimana. Sarà capitato anche a voi, ci si sveglia, ci si mette in moto, tutto riparte e a volte qualcosa dentro di noi ci dà quella strana sensazione di, definirei, non so, fragilità, di sovraesposizione. Abbiamo tutti una vulnerabilità, un tallone d'Achille, e di questo parleremo oggi con voi e con i miei ospiti. Voi intanto cominciate a scrivermi: qual è il vostro tallone d'Achille? Vi sentite condizionati da un vostro punto di debolezza e soprattutto come lo gestite? Si tratta di qualcosa del vostro fisico che vi mette in difficoltà o di una fragilità emotiva, di una variabile che attiene più alla vostra sfera psicologica? 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666. Naturalmente vi invito anche ad andare sul nostro profilo Facebook, Laura Vanossi in redazione, Filippa Oreggi in regia alla parte tecnica, e qui in studio con me Alberto Pellai, medico psicoterapeuta, ricercatore all'Università di Milano. Mi fermo. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, la vulnerabilità in che cosa può condizionare la nostra vita? E si tratta sempre di un limite oppure può essere anche una risorsa? Io mi dico che quando mi sento proprio vulnerabile dico: dai, che forse alla fine meglio così, no? Allora, noi siamo tutti fatti di punti di forza e punti di debolezza, cose che ci rendono più forti e cose che ci rendono vulnerabili. Se le conosciamo, allora la vulnerabilità diventa proprio una parte integrante di noi. L'accettiamo, la integriamo nella nostra personalità e sappiamo in qualche modo che uso farne. Il problema grosso è quando qualcuno vuole sentirsi solo invulnerabile, non accetta i propri limiti, i propri punti di debolezza. È un po' come l'adolescente che, proprio perché si sente in trasformazione e probabilmente vulnerabile, fa finta di essere onnipotente e a volte allora corre dei rischi molto seri. E a proposito di vulnerabilità, c'è un grande artista che al tema ha dedicato il suo ultimo successo dal titolo inconfondibile Vulnerabile. Sembriamo fuochi spenti e per non perdersi nei venti siamo qui. Con noi c'è Nick. Ciao Nick. Ciao, ti ringrazio della bellissima presentazione che mi hai fatto. Grande artista, io non merito così tanto. Senti, sei un artista con una carriera ventennale, più di 8 milioni di album venduti in tutto il mondo, più di 30 grandi successi raccolti nell'album e anche 3 inediti, di cui appunto Vulnerabile. Sì. Senti, io poi ti voglio leggere una frase che mi ha fatto, che ho detto: quanto mi piace quest'uomo. Beh, non sono solamente io che dico questo, vabbè. Però mi sono voltato indietro per guardare avanti e fare tesoro degli insegnamenti del passato. Sì. Un albero è tanto più forte e longevo quanto più sono robuste e profonde le sue radici. Sì, io penso questo profondamente proprio, anche essendo io molto legato alla terra. Mi definisco un uomo di terra io, perché nasco in un paesino ai piedi delle colline. I miei genitori hanno sempre vissuto al contatto con la terra, con la campagna. Io ringrazio Dio nel momento stesso in cui posso dire di tornare alle mie origini, alla mia famiglia, insomma. E quindi questo sicuramente traccia un lato della mia personalità. Sicuramente segna. Sì. Che genere, dato che noi dedichiamo proprio la puntata al nostro tallone d'Achille, alla vulnerabilità, parleremo di vulnerabilità fisica e anche soprattutto emotiva, che genere di vulnerabilità racconti nella canzone che abbiamo ascoltato? Ma in realtà è qualcosa legato alla fine di una storia. Io credo di poter dire che l'amore è il più grande sentimento che l'uomo si trova a provare ogni giorno. È anche il più difficile in certi casi da sostenere, da vivere, secondo me. E in questo caso, quando c'è la fine di una storia, tu la puoi trattare come vuoi, puoi essere il più possibile vicino alla persona verso la quale non senti più nulla, e lei, comunque vadano le cose, sarà sempre un punto vulnerabile. Eh sì. E quindi, anche se tu a lei o a lui parlerai nel modo più dolce possibile, ma a lei è come se tu le dessi dei colpi forti, perché intanto lei o lui si troverà a dover cambiare il corso della sua vita in men che, cioè, insomma, seduta stante. E quindi quando uno deve cambiare la sua vita, è sempre pieno, la sua vita diventa piena di incognite. Quindi il vulnerabile in questo caso è colui che si trova a dover fare i conti con se stesso, con questo nuovo percorso, con la fine di qualcosa che magari sentiva profondamente, quindi a questo cambio repentino di esistenza, insomma. Se volete parlarne con noi, se volete parlarne insieme anche a noi, a soprattutto a NEC, 800 24 00 24. NEC, a proposito di vulnerabilità, 20 anni sul palco probabilmente ti hanno insegnato a essere una persona diversa da quella che eri prima del grande successo, ti hanno permesso di vincere alcune delle tue vulnerabilità, ma probabilmente il successo porta nella vita di un uomo aspetti di vulnerabilità che non aveva previsto. Che cosa è successo a te? Com'è andata? Sì, io in realtà dalla musica e quindi dall'impatto forte che ho con la gente ho imparato ad aprirmi alle persone. Io ho cominciato la mia carriera esattamente quasi 20 anni fa, nel 2011, quindi già adesso sono circa 20 anni. Avevo paura del pubblico, perché io sono sempre stata una persona molto introversa, molto timida, e questa timidezza e questa introversione sono state vinte dall'aiuto del pubblico. E ogni anno che passa io sento fortemente il desiderio di confrontarmi con la gente, sia un po' perché sono egocentrico, però è anche perché è un'esigenza mia personale. Se no non avrei fatto questo mestiere, se no non sarei stato chiamato a svolgere questo ruolo. Mi piace proprio che qualcuno mi ascolti, mi piace l'idea di sapere che qualcuno da me possa attingere qualcosa, e mi piace fare questo perché mi rende un privilegiato, perché mi libera da paure, da situazioni che diversamente non riuscirei ad esternare, insomma. Senti, ma la tua è una ricerca continua, come di tutti noi, ma degli artisti in modo particolare. Ci saranno stati dei momenti in cui questa ricerca ha dato subito dei frutti, e altri invece in cui i frutti tardavano ad arrivare, non maturavano mai. E io penso che per un artista che comunque ha degli impegni sul palco, per una produzione, deve essere sempre sulla cresta dell'onda, deve proprio cogliere dalla società quegli stimoli per poi tradurli e trasformarli in quello che poi è una canzone, una pièce teatrale. Ecco, sì. Che cosa ti ispira dalla società di oggi? Ma guarda, io sono sempre fortemente attratto da quello che succede nei legami tra le persone. La gente, la vita di tutti i giorni è la maggiore fonte di ispirazione. Quello che succede a me, quello che succede alla persona vicina a me, a un amico mio intimo, a quello che vivo io grazie a questi viaggi. Quindi diciamo che dalla società io cerco di recepire il più possibile il buono e il cattivo. Poi io ho un modo di filtrare le cose personale, che poi mi piace questo aspetto delle cose mi piace poterlo condividere con chi mi sta intorno, e quindi c'è un lavoro dietro molto molto importante, perché poi alla fine io ripeto, quello che vedo, quello che decodifico lo canto e lo confronto con il gusto delle persone. Poi dicevi prima, ci sono degli aspetti molto delicati, per esempio la costruzione di un disco. Uno spera che questo disco possa piacere anche agli altri, e il professore prima diceva sapere accettare i propri limiti, questo è fondamentale, e questo te lo dà solo il sacrificio, solo la consapevolezza che magari un anno può andare bene, qualche altro anno puoi non andare come prevedi, ed è importante accettare i propri limiti, perché puoi così in modo sereno affrontare e questo difficile mestiere, che è quello di mettere d'accordo con originalità, non banalità, tutte le persone, o la maggior parte delle persone che ti ascoltano, insomma. Senti, ma tu quando, che cosa ti fa sentire, insomma, in gamba, forte? Che cosa invece ti fa sentire un pochino più vulnerabile? Beh, guarda, io vulnerabile sicuramente, ma più che vulnerabile mi fa arrabbiare, mi fanno arrabbiare tutte quelle, se vogliamo dire, critiche così gratuite di chi non, alla fine non si è avventurato in un tuo lavoro, non ha con pazienza ascoltato, non si è degnato di sentire, grazie a Dio, insomma, non succede più. Quindi la superficialità, con se superficialità, vogliamo. Non ha analizzato un lavoro che costa parecchio in termini di lavoro fisico e personale, come la costruzione, il concepimento di un album. Questa è la cosa che mi rende più vulnerabile, ma mi rende vulnerabile perché perdo le staffe. Ah, proprio, beh, meno male, perché vorrei far emergere anche un lato un po', no? Un po' inedito di Neck. Anche tu perdi le staffe, perché sennò sembri troppo perfetto, Neck. Tra l'altro, tu sei un gran bell'uomo. Tu sei un gran bell'uomo, no? Perché no, lo saprai anche tu. Ma e allora io mi pensavo davanti allo specchio. Sì. Ormai insomma sei giovane, ma augurandoti lunga vita, anche tu segnerai, ti sentirai un po' segnato, le piccole rughette. Ma io le coltivo amorevolmente, io le mie rughe. Non hai paura di non so, di invecchiare, no? Che di essere meno bello, ti preoccupi di questo? Quanto tempo dedichi tu come Neck, che insomma, sì, io vedo solamente anche gli SMS, le mail che sono arrivate, sì, molto del pubblico femminile, di essere benessere, e molti apprezzano la tua voce, il fatto che insomma venga, sì, anche da un bell'uomo. Ecco, che cosa, quanto tempo dedichi alla tua forma fisica? Guarda, alla mia forma fisica dedico un buon tempo, nel senso che insomma io cerco di tenermi in forma, faccio sport al di là del fatto che sono consapevole dell'aspetto fisico, certamente, sarei un idiota a dirti il contrario. Eh no, certo, poi io non ci crederei. Certo, fai bene a non crederci, ma ti dico la verità. Però non, magari quando ero più giovane sì, qualche anno fa probabilmente ci mettevo anche del mio, molto di più, ma oggi io sono interessato ad altre cose, sono consapevole del mio aspetto fisico, mi curo, ma perché amo stare in forma. Stare in forma, poi io, lo stare in forma significa avere un gran bel risultato sul palco, a quello mi ero io. Certo. Perché alla fine l'aspetto fisico, certamente io cerco di ritardare il più possibile i segni del tempo su di me, nonostante io sia comunque affascinato dal passare del tempo, che mi dà esperienza, mi traccia quei bei segni che poi sul viso rimangono, ma sono più attratto a quello che rimarrà di me nei risultati professionali. Ti interrompiamo, perché riprendo proprio una vulnerabilità che hai citato qualche minuto fa, cioè persone che magari non avendoti ascoltato ripensano al Neck di 10 o 15 anni fa, ben raccontato nel CD, e non hanno idea di questo livello di crescita. Secondo me tu sei cresciuto con chi ti ascoltava 20 anni fa, e adesso dopo 20 anni riesci a cantare anche le storie, proprio le emozioni di persone invece molto adulte. C'è una canzone, un inedito, che si intitola È da qui. Invitiamo i nostri ascoltatori ad ascoltarlo in modo totalmente incondizionato. Vediamo un po' se tocca a voi così come ha toccato la nostra redazione. Aiutare qualcuno a sentirsi migliore e poi fare l'amore sotto la luna, guardarsi e rifarlo più forte di prima. La vita rimane la cosa più bella che ho. Qui non c'è niente di più naturale. Neck, tu hai una storia d'amore di lunghissima data e sei da poco diventato padre. Sì. Altra cosa che mi rende vulnerabile, eh? È quella, vieni nel nostro, eh? Sì. Perché pensi di non essere all'altezza? Perché hai paura del futuro? Perché? Entro nello specifico, mi rende vulnerabile adesso, sono molto più vulnerabile, scusami, ai sentimenti, non che ne fossi lontano, assolutamente, ma ho una consapevolezza più piena dei sentimenti e riesco a riconoscerli molto di più. Un bambino nella vita di un uomo è qualcosa che sconvolge, nel mio caso in senso completamente positivo, certo, perché è come se io avessi avuto fino alla nascita di Beatrice una patina davanti agli occhi che poi si è dissolta magicamente il 12 settembre del 2010 alle ore 8 del mattino. Senti, e quando la guardi? Quando la guardo è un turbinio di pensieri in realtà, e quindi quando la guardo, a parte che mi vedo riflesso, e poi la cosa pazzesca è che quando ci penso insomma, sento veramente il brivido lungo la schiena, è che lei è la continuazione di me anche quando io non ci sarò più. È pazzesco, cioè lei avrà qualcosa di mio anche quando io non ci sarò più. E questo a me lascia veramente... Senti, sì, fa tremare un po' il cuore, si sì. Emoziona. Sì. Ecco la vulnerabilità, ma positiva. Buona, quella bella, certo. Che ti fa battere il cuore, esatto. Ti fa sentire, esatto. Ti fa proprio sentire la vita che ti pulsa dentro guardando un'altra vita, Alberto. Sì, direi che Neca ha raccontato con parole perfette l'esperienza della paternità in termini anche di vulnerabilità. Nulla come un figlio ti fa sentire nudo con te stesso di fronte alla vita, e poi è vero, un figlio ti proietta nella dimensione del per sempre, e non c'è nulla nella vita di un uomo che sia per sempre così come lo è un figlio. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sui mercati, poi abbiamo il meteo, continueremo a parlare di vulnerabilità, ci stanno già arrivando i vostri punti vulnerabili dal punto di vista fisico ma anche da quello emotivo. Salutiamo Neck, che so che devi scappare. Neck, grazie. È stato un piacere. Anche da parte nostra, torna a trovarci, ma in carne e ossa. Volentieri, così okay. Ci porti anche la foto di Beatrice. Un bacio a Neck, grazie, ciao a tutti, buona giornata. Grazie a voi. Essere e benessere. Marianna, fa vedere al dottore le lastre. Io penso che si tratti di una insufficienza destra. Però non ho sentito affatto dolore. Bravo questo dottorino. Ecco, questa, dottore, è la lastra del mio polmone destro. Sì. Guardi, in basso. Sì. Ma non dica sì, quello che lei indica non c'entra. Quella è la calcificazione di un fatto pleurico. Guardi invece qui questo rinforzo della trama. Del resto anche le analisi sono significative su questo punto. Marianna, le analisi. Ho l'impressione di avere degli esiti di un focolaio apicale. Capito, dottore? Focolare pregresso, naturalmente. Sì. Legga intanto l'esame emocitometrico. Sì. E la percentuale delle leucociti, sì. Soprattutto. Se fosse veramente un fatto asmatico, troveremmo alterato il rapporto tra i globuli bianchi, non le pare, dottore? Ma lei è medico, scusi. Hai sentito? No, ma legge l'enciclopedia medica tutte le sere prima di addormentarsi. Parliamo delle nostre fragilità, ma delle fragilità anche che riusciamo a trasformare in punto di forza in occasioni 800 24 00 24. Parliamo di tallone d'Achille sul fronte fisico ma anche su quello emotivo. Vi do uno spunto, ad esempio Luca mi scrive: ero iperteso, il mio medico di famiglia mi ha suggerito di fare attività, ci ho preso gusto e adesso sono un maratoneta. Questo è proprio un esempio di come una nostra fragilità può diventare un'occasione. Allora raccontateci le vostre storie, le vostre esperienze all'800 24 0024. Oggi in collaborazione con IBS faremo arrivare a casa alla storia migliore una fragile perfezione, un romanzo che Alberto racconta proprio una storia che è assolutamente in sintonia con quello che noi vogliamo raccontare, stimolare nei nostri ascoltatori. Romanzo davvero interessante, la protagonista Janice sente una mattina che la sua vita sta per cambiare, il marito è diventato milionario grazie a un balzo in borsa della sua azienda e dice: ho svoltato. Invece la notizia successiva che gli arriva è che il marito la molla e se ne va verso un'altra vita. Per cui quello che doveva che essere il momento di svolta diventa... in positivo lo diventa in realtà per lei una grande fatica. Però a quel punto il romanzo racconta la storia di una donna che con le due figlie deve ripartire da zero. E ce l'ha. E ciò che era qualcosa che le ha rese incredibilmente fragili, le trasforma invece in donne quasi perfette. Ecco, allora, il titolo. Una fragile perfezione. Chiamateci 800 24 00 24. In linea con noi abbiamo la dottoressa Raffaella Micheli, che è segretario nazionale della SIMGE. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottoressa, abbiamo sentito, siamo partiti con un piccolo estratto del medico della mutua, e a voi a volte basta un'occhiata per capire e inquadrare il paziente. Se lei, dottoressa, in base alla sua esperienza, dovesse, direi, tratteggiare un identikit del paziente vulnerabile, come lo descriverebbe? I pazienti vulnerabili, quando si ha un po' di esperienza, soprattutto in medicina generale, come noi che siamo, come dire, sempre in prima linea con le persone, sono molto facili da vedere. In genere l'indicatore più frequente è la frequenza, per dirla con una ripetizione di parole. Noi vediamo spesso i pazienti e quindi cominciamo a chiederci cosa c'è che non va. Non va nel senso che può essere una malattia vera e propria, e quindi quella, come dire, è chiaramente un indicatore di gravità più che di fragilità. Ma se non c'è una malattia grave e la persona viene molto spesso, cominciamo un po' ad aguzzare, arezzare le orecchie. Dottoressa, adesso noi siamo molto più informati, noi come pazienti, e anche dal breve estratto del medico della mutua vediamo questo paziente che la sa lunga. Ecco, avere un paziente così informato vi mette in difficoltà o per voi è una risorsa, appunto, è una fragilità, è un'occasione per fare ancora meglio la vostra professione? È una difficoltà da trasformare in risorsa, nel senso che è molto... Guardi che lei non concorre per il nostro gioco con IBS, è una fragile perfezione, anche se lei mi dice una cosa bella, è solo per i miei ascoltatori, non sto scherzando. È peccato. No, avete fatto degli esempi molto carini all'inizio della trasmissione, nei quali mi identifico assolutamente, mi complimento, perché in realtà il paziente che viene sapendo tutto, una volta era l'enciclopedia medica, ricordo che la leggeva mio papà e ancora ce l'ho nell'armadio di casa, adesso è internet naturalmente, sì. E vengono con i fogli già stampati, però ripeto, è una cosa che va trasformata in utilità per il paziente e per il medico. In che modo? Diamo delle indicazioni. Esatto, sì. Un paio di modi. Allora, intanto rivolgersi a siti affidabili, che sono in genere quelli legati alle associazioni dei malati, quindi mai siti, quelli che si trovano su Google così un po' a caso, insomma, sì, senza niente volere, perché molti siti danno delle informazioni che sono un po' eccessive oppure riduttive. Quindi associazioni di pazienti e società scientifiche, vero? Esatto, società scientifiche forse possono avere per il paziente, se non hanno una sezione specifica, un po' tecniche. La terminologia è un po' difficile, però in molte delle società scientifiche, molte soprattutto associazioni dei pazienti, ma penso anche a Cittadinanza Attiva, per non far nomi, insomma, o queste cose qui, hanno delle sezioni per i pazienti e quindi loro possono vedere e leggere con facilità. Questa è la prima come dire, caratteristica positiva. L'altra caratteristica è di sottoporre al medico, cioè di non farsi diagnosi da soli fino a quel punto. Sì. E quindi di portarci le cose e di avere la disponibilità anche di ascoltare un contraddittorio. Andiamo a Udine, c'è Carmen che ci aspetta, vediamo se ha più bisogno di un supporto che può fornire Alberto Pellai sul fronte psico-emotivo o invece, ma anche sicuramente anche la dottoressa sarebbe in grado di farlo perché il medico deve essere sempre un po' psicologo, ma invece Carmen ha bisogno più della dottoressa Micheli. Carmen, buongiorno. Buongiorno. Come sta? Male. Male perché quest'anno mi sono capitate, premetto, cerco di essere brevissima anche se le cose sono una marea. Io sono sempre stata una donna molto attiva, insegnavo, tenevo conferenze, organizzavo corsi di cinema. Sì. Allora, l'anno scorso il 27 dicembre sono stata ricoverata, niente di grave, comunque ho passato mezzo anno in ospedale per infezione prima renale, eccetera. Sì. Quindi nel frattempo mio marito con i 20 da 18 anni mi è sempre stato molto accanto, prima cosa. Quindi adesso ho paura del male, fra un poco sarò operata, ma è un'operazione leggera di calcoli. Sì. Seconda cosa, mio marito l'anno scorso ha perso il lavoro, fino a che è stato accanto a me non ci sono stati problemi, poi a marzo ho cominciato a vedere che stava molto male, premetto, mio marito non è uno sciupa femmine, voglio dire, sì. E il 2 giugno mi ha annunciato che sarebbe partito per Bucarest perché aveva conosciuto tramite Facebook una romena che l'aveva, un architetto romena che l'aveva invitato. E quindi mi ha mollato, sì, tra l'altro non un, mi anno ha mollato. Un anno difficile, insomma, Carmen, diciamo così, per usare un eufemismo, giusto? Un messaggio scritto su Facebook dicendo che sarebbe tornato solo per la separazione. Carmen, Alberto qua è dura, perché quando ti crolla sei preoccupato per la salute, anche se poi puoi affrontarla, hai una storia d'amore che va per aria in un modo così quasi da film, no? Perché come direbbero gli adolescenti, tanta roba. Allora proviamo a vedere con Carmen qual è il suo senso di vulnerabilità, cioè una dimensione oggettiva. Il fisico ha cominciato a traballare, tra l'altro proprio nella vita di una donna che si racconta come molto attiva, e c'è stata questo abbandono d'amore, e il senso di vulnerabilità di Carmen ha un versante oggettivo, quello che è successo, ma anche uno soggettivo, cioè probabilmente il sentirsi travolti da eventi rispetto ai quali non si può avere controllo, non si può tenere il controllo. Allora, dove sta probabilmente la possibilità di vincere in parte questo senso di vulnerabilità, riacquisire il controllo su quelle dimensioni che dipendono da noi? Il fatto che in questo momento la storia d'amore è interrotta o forse è terminata non toglie però a Carmen la percezione di essere una persona capace di costruire relazioni molto sane, molto forti, molto affettuose o affettive, se vuole. Chiaramente bisogna muoversi con lentezza in questo percorso, ma ce lo si può fare. Io partirei proprio dal fatto che ci si può mettere davanti allo specchio e, di fronte a un assalto così forte della vita, riguardarsi e dire: e io adesso da dove riparto? Collezionare i propri punti di forza. Il cinema mi è sembrata essere una passione. Passione di e Carmen. Da lì ricominciare, cioè rifare passi attivi che dipendono da noi e ci mettono nella dimensione del controllo di ciò che possiamo fare. Dottoressa, ci sono, Carmen ne è un esempio, momenti, situazioni, ma anche professioni e ruoli che ci rendono più vulnerabili. Quando è così. Si è impegnate in molti ruoli, è chiaro che si è più vulnerabili, perché ci sono molti punti in cui possiamo essere attaccate. Parlo al femminile perché tocca a noi, la donna multitasking, si chiama così ormai. Questa è una cosa che appunto tocca a molti uomini che sono molto impegnati, per carità, però le donne, oltre ad essere molto impegnate, di norma hanno anche tutto il versante e casalingo e soprattutto familiare, perché questo ruolo del caregiver, no, del curatore femminile, delle badanti, anche se noi adesso carichiamo delle altre donne che sono a loro volta donne badanti, no? Allora, quando si è impegnati in molte parti si è intanto più stanchi inevitabilmente, sì, perché non si riesce più a scegliere, perché non c'è niente che puoi tagliare, no? E quindi alla fine devi fare tutto, e quindi la stanchezza ha una sua, anche se è molto motivante, poi sì, dire così, no? Per cui è anche vero che la motivazione alleggerisce le cose, però bisogna stare attenti a quello che viene chiamato nel gergo dei professionisti burnout. Il burnout, che vuol dire bruciarsi, è quella cosa per cui molti che fanno alcuni lavori molto pesanti, penso a anche persone che hanno a che fare con la salute, alcune categorie mediche, per esempio, no? Gli oncologi piuttosto che altri sono più tartassati da angosce, no? Da cose, ma questo vale per altri mestieri. In queste situazioni è più facile cedere fisicamente. Dottoressa, possiamo dare delle specie di campanelli d'allarme? Quando io penso alle tante donne che lavorano, hanno i figli, poi magari hanno dei genitori a casa che devono essere accuditi, sostenuti, e il tempo non basta mai, ma non c'è mai neanche il tempo per dire: mi fermo un'ora, perché finito il lavoro inizia quello della famiglia, molto motivante, gratificante. Ma io vorrei che lei ci imprestasse il suo occhio clinico. Quando si accende una piccola spia, magari non è proprio fissa, ma inizia a lampeggiare, e io che cosa posso fare per capire che è arrivato il momento, se posso, perché di fermarmi, di trovarmi quella mezz'oretta al giorno per farmi una passeggiata, per fare due chiacchiere con un'amica, per andare dal parrucchiere, per leggere un libro, non lo so, me lo dica lei. che cose belle che sta citando. Allora, credo che il campanello d'allarme sia, no, conoscendosi, e questa è una premessa che volevo fare quando si parlava di internet, che la qualità del avere informazioni maggiori è legata alla possibilità anche di osservarsi e di conoscersi di più. Cose per le quali sono più, come dire, un pochino adatte le donne che gli uomini, che si fermano un po' meno su queste riflessioni, ma che è molto utile per la persona, perché conoscersi significa anche essere un po' in grado di valutare: corro dal medico subito o aspetto un attimo? In linea generale noi consigliamo di stare attenti a qualsiasi novità, quindi sì. Punti di novità nel nostro corpo, sia fisici sì. che di, cioè, come dire, segni che si vedono o segni che si sentono, però non dopo tre minuti che li abbiamo sentiti o visti. Il concetto del tempo e del prolungamento di questi sintomi fa la differenza. Essere e benessere. Dottoressa Micheli, quindi buona. Occhio, ma aspetta, questa è un po' la nostra indicazione di oggi. State sì. attenti ai segnali, soprattutto se improvvisamente notate qualche cosa sul vostro fisico, oppure sentite qualche cosa che prima non c'era, però un attimo, può essere una cosa temporanea, quindi non è necessario andare subito dal medico, a meno che, dottoressa? Ma e questo vuol dire non esagerare soprattutto. Io credo che il messaggio sia non esagerare né nel poco né nel troppo, quindi cercare di essere, no, come dicevano i latini, in medio stat virtus, a meno che non ci siano cose acute. È chiaro che allora non stiamo parlando di vulnerabilità, ma stiamo parlando di patologie. Certo. Quindi quello penso che insomma i pazienti appunto lo fanno già abbastanza. Per quanto riguarda lo stato di vulnerabilità, per esempio, sentivo Carmen prima, mi veniva da dire un'osservazione anche così, come dire, un po' umana, relativa al fatto che quando succedono queste cose tutte in una volta, credo che il pensiero debba essere: ho perso qualcosa e magari non tornerà mai più, ma c'è molto che mi può succedere anche di molto meglio. Certo, e poi soprattutto meglio tutte insieme a questo punto, no? Sì, se devo, piuttosto che una dopo l'altra ravvicinata, prendo spunto anche da un messaggio, ecco, se devono capitare, le sono capitate insieme, ma Carmen può farcela. E ad esempio Maria mi manda un messaggio proprio per Carmen, si è attivata la comunità di Essere Benessere, un messaggio un po' da, insomma, per favore dite a Carmen che se il marito ha perso il lavoro, la signorina rumena lo lascerà presto per un altro più ricco, un pensiero che ha aiuta. Alberto, dietro a questo pensiero c'è un po' una sorta, un approccio. Sì, io terrei valido l'approccio di funzionare come una squadra, cioè Maria, non conoscendo Carmen, ha subito mandato il suo consiglio, e direi che proprio quando ci si sente vulnerabili è perché si ha la percezione di essere molto soli e molto isolati. Costruire reti, la rete è proprio una dimensione che aiuta a tenere e a proteggere, quindi protendersi verso gli altri, dire ho bisogno di aiuto, è uno degli aspetti che ci permette di uscire dal senso di vulnerabilità. Una fragile perfezione, vediamo se Mario da Pescara ce ne racconta una all'800240024. Buongiorno Mario. Buongiorno a tutti e grazie per lo spunto che ci date tutti i giorni. Grazie Mario. Allora, io sono, fortunatamente sto bene di salute, per quanto riguarda i segni fisici, quando vivo momenti di stress mi ingrasso. Allora lì, quando comincio a ingrassare, già mi sento. No, io l'unica cosa, siccome per eventi esterni, venerdì ho avuto il mio primo figlio, ho dovuto cambiare lavoro, mi sono dovuto rimettere in gioco. La domenica sera sempre mi prende un senso d'angoscia proprio, che mi dura fino a lunedì mattina, la mattina. Però io poi la mattina, siccome mi sento male quando sento questa paura, che faccio? Mi sveglio prima, reagisco, comincio ad affrontare la cosa. Però è una cosa che mi dà fastidio e vorrei superare, insomma. Anche perché la domenica è l'unico giorno libero che abbiamo, lo so, non godercelo. Questa malinconia, questa ansia, che la domenica sia un giorno particolare, non siamo solo noi a dirlo, poeti, scrittori, Alberto, ne hanno ben descritto questa emozione un po' È un'ansia sana, sperimentata da molte persone, alla quale anche secondo me, invece di rifugire, cioè di dire speriamo che finisca presto, ci si può proprio abbandonare, cioè entrare entrare dentro quell'ansia, non con la paura di quello che sta per succedere, bensì con la consapevolezza di che cosa mi sta raccontando quest'ansia e qual è il valore di quest'ansia, ed è possibile allora cambiare lo stato d'animo rivedendo la bellezza di ciò che c'è stato nei 2 giorni di festa. E se ciascuno di noi conosce, cerca di tutelare, lo leggiamo dai nostri messaggi, le proprie vulnerabilità, parlo di vulnerabilità fisiche, emotive, le stesse 2 dimensioni sono in gioco su una pedana su cui si muove con grande disinvoltura Margherita Granbassi, campionessa di fioretto, che è in linea con noi. Ciao Margherita! Ciao, è un grande bel buongiorno a tutti! Margherita, il fioretto, come la sciabola, è definito arma convenzionale, ovvero è un'arma disciplinata da un regolamento per l'assegnazione della stoccata. Esatto. È giusto, ho studiato bene. Esattamente, ecco. Questo significa che c'è un arbitro alla fine che decide a chi va il punto, ovviamente seguendo un regolamento, mentre nella spada, che è la terza arma, diciamo che il primo che tocca, anche se si tocca insieme, anche se i 2 atleti toccano entrambi nello stesso momento, la stoccata verrà assegnata a tutti e 2, mentre nelle altre 2 armi, se si accendono 2 luci, la ragione è soltanto di 1. La ragione è solo di 1. Ma senti, ma se tu dovessi fare un parallelo tra la scherma e la vita, quindi le relazioni interpersonali, che cosa ci racconteresti? Perché è tutto un attacco, se vuoi, e una difesa, e succede così nella vita di tutti i giorni. Sì, beh sì, sicuramente è un po' una metafora di quella che è la vita di tutti i giorni, no? Infatti diciamo che si riesce a trarne giovamento e insegnamento per quella che poi sarà la vita reale, che non è quella che noi viviamo, sinceramente, perché comunque quando vivi in un mondo dello sport ad alto livello vivi quasi in una bolla di sapone, no? Però diciamo che da qualche punto di vista ci preparano, se non altro quello che abbiamo imparato fin da piccoli, è che per ottenere le cose bisogna darsi da fare, bisogna avere spirito di sacrificio, abnegazione, e ovviamente insomma tutte queste sono cose che ci serviranno anche dopo. Senti, dalla stoccata sai difenderti, ma il tuo tallone d'Achille? Fuori, il mio tallone d'Achille, tolto prima il giubbetto di vulnerabilità psicofisica, no? Sì. Sicuramente diciamo che un leitmotiv della mia carriera sportiva sono stati gli infortuni, per cui qui parliamo di vulnerabilità fisica, devo dire, a livelli enormi, perché comunque ho avuto 3 interventi chirurgici al ginocchio, 1 alla mano, per cui sicuramente questo è un grande tallone d'Achille. Poi perché no? Dal punto di vista psicologico io non sono proprio una persona fortissima su quel fronte, per cui devo sempre cercare di allenare anche la mia, diciamo, autostima, la concentrazione, tutte cose che non ho naturalmente, ma per fortuna si possono trovare dei professionisti che ti aiutano, e ovviamente devi essere ben predisposto e disposto anche tu a fare un determinato tipo di lavoro. E devi avere una certa disciplina, un certo rigore nell'allenarle, Alberto, sei d'accordo? Sì, dobbiamo farcela. È un percorso, non lo trovi già pronto? Sì, devo dire che Margherita ci ha fatto proprio da life coach, così la chiamano gli addetti ai lavori. Grazie Margherita per essere stata con noi. Grazie a voi, un abbraccio. Abbiamo ancora Giuseppina dall'Aquila, vediamo se riusciamo in pochi secondi. Filippa Oreggi mi sta... Giuseppina, guardi che Filippa Oreggi mi sta già facendo gli occhiacci, ma se lei è rapida, grazie. Allora, io purtroppo ho vissuto un'esperienza molto, molto difficile, ho perso tutto quello che avevo, e si sono frantumate non solo le certezze materiali, ma soprattutto i sogni, le speranze, le sicurezze, e quindi questa vulnerabilità a livello psicologico, certo, purtroppo si è trasformata in una vulnerabilità fisica, cioè io dopo questo... dopo l'esperienza del terremoto, sì, purtroppo sì, ho proprio avuto, ho somatizzato la problematica, e quindi ho dovuto fare, stavo male, avevo delle malattie, ho dovuto fare delle analisi, e le mie difese immunitarie erano molto basse, quindi avevo problemi fisici. Sta usando l'imperfetto, quindi oggi invece, oggi, Giuseppina? Oggi, grazie, sono riuscita con l'omeopatia, non ho voluto psicofarmaci, quindi sì, con l'omeopatia sono riuscita a risollevarmi il primo gradino. Successivamente con la creatività, con la scrittura, sono riuscita trasporre sulle pagine di un diario quello che avevo vissuto, sì, e a prenderne una certa distanza emotiva con la lettura un mondo. Giuseppina, io devo salutarla, ma sicuramente la sua storia ci fa scegliere, la sua storia. Quindi Giuseppina riceverà a casa, in collaborazione con IBS, Una fragile perfezione, la sua storia. Alberto lo merita. E intanto io saluto Giuseppina, la dottoressa Micheli che è stata con noi, Alberto Pellai, grazie a voi, a domani.